Spunta la rosa sfiorita nell'erba, cattiva la spina. Rosa che non sai se fu teneramente bianca, punge alla soglia del roveto, profuma dell'odore e del rimorso di chi mai per sé la colse solo per sciuparla. Se spunta dalla rosa sfogliata l'erba, perfida la spina. Rosa que no saps si fou tendrament blanca punxa al llindar de l'esbarzer, perfum amb la flaire del remordiment de qui mai per a si la va acollir, tan sols per pensir-la.